All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Che soddisfazione anche questa settimana, tantissime cose di cui parlare, notizie, novità, quello che abbiamo fatto e la classifica molto speciale. Vi porteremo mano nella mano nella Movida Regina. Adesso un piccolo spazio musicale. Ragazzi, alla cena dei regini, bentornati, visitate subito www.tbac.it, cliccate la cena dei regini, commentate la trasmissione con noi a cena@tbac.it e da lì potete anche riascoltare le puntate precedenti e venirci a trovare. Cosa è successo a Laos in questa settimana? Laos ovviamente sempre sotto lavori, sotto ristrutturazione. Abbiamo partecipato a Suona Reggio Suona, questa iniziativa che ci ha visto scorazzare sul corso festanti e soprattutto suonanti con quello che avevamo di meglio. Abbiamo improvvisato. La raga è fatta con bottiglie e pietre, cubi colorati che facevano rumore di strada. Da qualunque, uomini vestiti da cani, uomini vestiti da scimmie. E quindi ce la siamo un pochettino spassata, abbiamo fatto una nostra piccola coreografia, molto piccola, comunque nella confusione, abbiamo interpretato i Blues Brothers in versione regina, abbiamo cantato la canzoncina e presto di questo vedrete un video, che spero di riuscire a linkare in questo video, se state guardando la puntata su YouTube. Quanto ce la siamo spassata? Beh, sicuramente è un'esperienza bella. Comunque, a parte noi che è stato spettacolare andare in giro per Reggio facendo suoni, usando fischietti, campane, armoniche, chitarre, campanellini, ma anche vedere i cittadini, perché non eravamo 10, 20, erano veramente un migliaio, veramente tanti, tra cui tra l'altro anche una menzione d'onore alla nostra Grell, che è partita non sapendo suonare tu nulla e alla fine era con un organetto in bocca, la campanella in una mano, una roba in un'altra, multitasking. È diventata gli mancava tanto la padella con il mestolo che fai. No, gli mancava soltanto il cappellino a prendere le offerte della gente. Io figlia mia, cioè alla grande, ragazzi. E comunque è stato bello vedere la città riunita. Io sinceramente non pensavo ci sarebbe stato così tanto, cioè alla fine pensavo che saremmo 4 gatti e una ventina di persone che fanno girano per vero, poi ho visto tutte quelle persone là, mi sono un pochino stupito. Ha funzionato, ragazzi, ha funzionato. Abbiamo incontrato anche Poppy, che è stato uno dei promotori che è intervenuto in trasmissione, l'abbiamo visto dal vivo e tra l'altro ha registrato anche il promo della Giana Regina, ci ha fatto questo favore. La prossima iniziativa importante in ugual maniera il 25 novembre saremo in Piazza Italia per lo sciopero delle donne. Ragazzi, diamo una mano alle nostre sorelle, madri, amiche e via dicendo in questa giornata molto particolare che si propone come giornata contro il femminicidio. La promozione, il tentativo di promuovere attività come la casa delle donne, dei centri in cui la donna può essere ascoltata e accolta in caso di guai, quindi una cosa abbastanza importante. Noi saremo lì a registrare video, a fare le nostre posucce, insomma, a giocare un po' con la piazza. Bisogna essere. Quando sarà? Il 25 novembre dalle 15.30 in poi, quindi durante tutto il pomeriggio, e ce la sposteranno. Naturalmente per una cosa particolare e interessante. Assolutamente sì, ragazzi. Ragazzi, bisogna esserci, perché per quanto le si ami, siamo tutti nati dalle donne, voglio dire. Un saluto anche alla comunità Linux con la quale sono andato a montare antenne negli ultimi 10 anni. Abbiamo fatto queste installazioni al quinto piano di un palazzo, ci siamo scatenati ed è stato bellissimo. E un saluto anche al nostro Pusher, che è tornato dal Messico, ragazzi! Grazie, grazie. È tornato dal Messico. Una parola in messicano? In messicano. In messicano? Ma tanto è spagnolo. Qualsiasi parola che finisce per S? No. Sombrero. Jalapeño. Jalapeño. Jalapeño. Quello che stanno provando i nostri amici qua. Luca Teco. Ci ha portato una salsina. Ci ha portato una salsina verde molto molto gustosa. Quella è per la sfida di dopo. Cioè, e quindi allora tutti i messicani hanno i baffi, anche le donne. cosa applaudite? Ma è che dobbiamo fare lo sciopero delle donne e facciamo spettacolo. Mi vergogno pure io, dai. No, scherzi a parte, sì, è un po' come se le donne. Io sono andato nello Yucatan ed è comunque una zona molto turistica, molto commerciale, molto americana. Quindi diciamo di tipico proprio non c'era appunto, tutto era mascherato da un'attrazione per il pubblico, per il turismo. Mm-hmm. Conoscono qualsiasi lingua, tu vai a parlare in giapponese, in italiano, in coreano, in tedesco, ti capiscono sempre, sanno risponderti. Come al raggio, insomma. Sì, non credi. Cosa ridete? Cosa... No, ma guarda. No, comunque è stata una bella esperienza. Abbiamo visto il Maya, ho avuto una guida che era molto culturale, ci ha detto le risonanze, perché alcuni palazzi, alcune piramidi, diciamo, per il loro erano costruite in determinati punti, a determinate altezze. Mm-hmm. Ed è stata la cosa forse più interessante che ho visto, è stata una piramide a Ekbalan. E tu battevi le mani e per una diciamo risonanza particolare la piramide ti rispondeva, nel senso che faceva, ti rimandava un suono diverso dal battito delle mani. Cioè tu battevi le mani e quello che tornava indietro era più. Era una cosa stranissima. Cioè a qualsiasi e a qualsiasi rumore rispondeva così, oppure al battito delle mani, cioè deve essere un rumore forte. Okay. Infatti abbiamo provato battendo le mani e rispondeva questo. Bello, bella questa esperienza. Ed è una costruita apposta. Erano tutti comunque palazzi fatti per seguire gli astri. Poi costruita apposta per quale motivo non si è mai capito? Per seguire gli astri, per esempio, perché comunque seguivano l'andamento del sole e l'andamento di Venere. Perché a seconda degli incroci, anche con questi due astri, andavano a capire le stagioni. Erano già calcolato l'anno in radio di 500 giorni. Era diviso in mesi e dicendo, e sapevano quando coltivare, quando raccogliere. Quindi era tutto lo stregone, per esempio, lo sciamano, e aveva questo potere di dire alle persone: tale giorno coltivate, perché il raccolto sarà migliore che se invece coltivate in un altro periodo. Mm-hmm. E questo per loro era avere proprio il potere sul popolo, perché sul popolo ignorante tramite la conoscenza riuscivano a soggiogare, governare. Un edificio che parla nella tua vita, cosa ti può, cioè, continua. Guarda, la guida ci diceva che questi edifici avevano non una particolarità e servivano a dare un legame tra gli dèi e il popolo. Cioè lo stregone che ti dice, per esempio, durante l'eclissi, adesso farò sparare il cielo. Sì, era impressionante. Però uno stregone che ti dice, fai una domanda e il tuo Dio ti risponderà. Poi ti dico io che cosa ti ha detto, perché tu non lo puoi capire. Ah, quindi, però era qualcosa che diciamo era più sentito dal mondo. In sì, più una piramide, se non ricordo male, è proprio Chichen Itza, la più importante. Il 21 marzo dà uno spettacolo particolare. Il sole, mentre tramonta, disegna un serpente che scende dai gradini. Cioè la luce del sole scendendo fa con un gioco di luce ed ombra un serpente che scende dal gradino. Il 21 dicembre, all'alba il serpente risale. Cioè lo strigone diceva: in questo giorno il dio serpente, il dio della fertilità, scende sulla terra per fertilizzare il terreno. Il 21 dicembre se ne va, riparte. Una bella esperienza, quindi tra l'altro è un esperimento che possiamo anche fare a Raggi, lo sai? Sì, io l'ho fatto. Se vai nel centro cittadino di Raggi c'è un grande tapirulano, una struttura fatta in maniera molto particolare, un prossimo brano. Io ho provato a chiedere all'interno della struttura, così a gridare, qual è la risposta a tutte le cose dell'universo? E mi sono sentito rispondere 42. Ma poi ho provato a sfidare io stesso la struttura e ho burlato 42 e mi è tornata una voce che diceva modello Reggio. E allora anche a Reggio potete fare queste cose. Sei tornato, sei contento, meglio l'Italia. Va bene, sì, dai, meglio di te. Sicuramente mi è mancata la cucina italiana. Sì, perché mangiare comunque 15 giorni tacos, tortillas, carne grigliata, cioè diventa un po' pesante. Difficile da crederci, però. Io mi sarei divertito un sacco. No, non mi sono divertito, però alla fine. Ma anche solo a mangiare, stavo tipo nel ristorante. È quello che facevo io. Ragazzi, questo è lo spazio delle notizie, c'è una @bacca.it. Commentate questa puntata anche voi e adesso uno spazio musicale. We must pray for our survival. We must. ragazzi, la cena dei regini è www.back.it, cliccate la cena dei regini, commentate a cena@back.it, la puntata è quello che sta succedendo a questa tavola. Adesso passiamo allo spazio delle notizie, con una notizia molto triste per tutti noi e molto particolare, in quanto VK, un social network russo, insieme comunque ad altri siti analoghi, è stato bloccato in Italia. Sono stati chiusi, tra cui NoVideo e via dicendo. È una lista bella lunga di... È quello che praticamente usa più spesso i cineblog. Esatto. Ecco perché non mi funzionava io. Esatto, ragazzi, sgomento. E sono stati chiusi perché era presente una copia pirata del capolavoro di Checco Zalone, Sole a catinelle. E quindi Medusa Film ha deciso di chiudere in Italia, ragazzi. Cioè, a cosa di quel film di Perché c'era Sole a catinelle? Perché c'era Sole a catinelle? Di quel film italiano di sempre, ma tu gli incassi che ha fatto il cinema, a quanto pare sì. No, ma ragazzi, il discorso è che comunque è un campione di incassi, cioè un film che sta guadagnando tantissimo. E solo perché c'è una copia pirata hanno deciso di fare che, questa. Come fa? Cioè, class non è divertente. Perché? Guarda, è sempre meglio decidere quando torni. Che cos'è? Il personaggio recita nel ruolo di un idiota mentecatto che non sa neanche l'italiano. E le persone non so come fanno a far ridere davanti a quello. Tra l'altro è lo stereotipo perdone, tra virgolette, che ci fa sembrare di essere pazzi. Però c'è il fatto che sta portando a casa questo risultato comunque considerevole, al di là di tutto. Attualmente il cinema italiano, ragazzi, volenti o volenti, è questo. Vabbè, gli stupidi idioti che controllano, che bella comicità stanno diventando. Non è che dispiace questo film, non lo capisco, però gli altri comunque il personaggio, per quello che è, sta facendo l'imitazione del tanto nel melodico napoletano. Però estremizzandolo, non dico che attacchiamo da tutti i balcani, che sì, però non so, io effettivamente non so comunque. È una comunità che. Cioè, prende in giro l'Italia, per la maggior parte del tempo. E le persone decidono tu. Cioè. Oddio, aspetta. Questo è un altro. L'Italia ride qui. Alla fine non è che per quel zolone prendono di ranza perché sono tutti così. Non è bello comunque. No, speriamo poi che questi difetti si riescano a risolvere. No. A livello del terzo film è avuto comunque ancora successo. Non si risolveranno. Una questione anche di gusti, ma comunque per chi ha delle idee discutibili, c'è anche chi ha delle idee sicuramente particolari. Questo ragazzo, succede in America, compra casa davanti alla casa della ex e installa in questa terrazza una grande scultura di un dito medio alzato. Quindi un grande messaggio comunicativo. Interessante. Sì. Avevo detto che era un cinquantenne. Comunque, sempre un tizio, insomma. È geniale, però... E vedi, quando il rancore sa essere anche maschile, perché, voglio dire, solitamente è la donna che ti dica le macchine. Più. E invece, in questo caso, siamo di fronte a un'opera d'arte del disegno umano. Questo però è una cosa, cioè alla fine è un tipo di vendetta anche molto sottile. Perché uno non è una vendetta, cioè ti rovino qualcosa, ti faccio male, ti prendi in giro, no, ti dedico uno stato. No, ti faccio stato, ricordare cosa vuoi. Ma quando guardi la mattina, mi prende il caffettino, cioè, c'è un messaggio sempre pronto. Cioè, capito quanto ci ha lavorato, se ti ho comprato casa, ti farei la strada. Incredibile, c'è tempo da perdere. Volevo togliere una piccola soddisfazione. È piccola, chiamala 4 metri di soddisfazione. Non eravamo stati in pronto, quindi non deve essere costato troppo. Non usate più dettagli. Ma tutti questi comportamenti strani, forse ci sta trovando soluzione Alice Silver, uno scrittore britannico, che dice che secondo lui l'origine dell'umanità l'origine dell'umanità è extraterrestre, quindi noi siamo arrivati sulla Terra e la stiamo abitando da stranieri di un altro. Buongiorno principessa. Il libro si intitola Gli uomini non vengono dalla Terra, e già la dice molto molto lunga, e quindi dice questa civiltà aliena è venuta sulla Terra, si è incrociata con quello che sarebbe l'uomo di Neanderthal, e da qui è nato l'uomo attuale. No, lui ancora non ha dato un nome a queste cose. Secondo lui il fatto del sole, del rapporto, diciamo, che abbiamo col sole, e delle malattie a cui siamo sottoposti, è comunque la prova che non siamo realmente terrestri. Io non penso che sia possibile. Immaginate una. Allora, abbiamo per scontato che l'uomo di Neanderthal esiste, se già non riusciamo a riincrociarci con altre specie del nostro stesso pianeta, impossibile, geneticamente impossibile. In natura, ovviamente. Poi magari se si può fare tutti, non lo so. Comunque. Com'è possibile che possiamo incrociarci con una creatura proveniente da tutt'altro pianeta? L'hai appena detto. Perché magari questo, ingegneria genetica quindi così avanzata che riuscivano a. Ma aspetta, già sono il pensiero del cambiamento genetico in laboratorio, già mi fa una cosa. Ma aspetta un attimo, però, ma a che pro? Soprattutto a che pro? Non dico incrociarsi con un'altra classe, ma lasciarci qua senza dirci siete magari sono. Ma sai come fanno con i batteri sotto verde, oppure con gli animali che li guardano come più gruppo, hanno le mie capacità? Magari ci stiamo osservando e vedono come ci comportiamo. Oppure studiamo. Oppure il loro mondo stava esplodendo e hanno mandato una capsula con il loro figlio che poi c'è Marge che ti accoppia con tutto uno di quegli alieni tentacolari verdi. Ah, sì. E le nasce Maggie e tutto l'unione di loro due. E alla fine, quando si vede l'accoppiamento, lui non fa altro che puntargli un laser, un verso il laser contro e fargli un raggio. È vero come funziona tutto il mondo. Ragazzi, se siete anche voi degli alieni e volete mandare il vostro report sulla razza umana, scrivetelo, c'è il banco.it, possiamo dare voce. No, questo no. Oppure un atto di forza che non è cadere. Ricordati atto di forza. Niente laser, grazie, lo faccio io. Comunicate anche questo con noi, ma per una tradizione che viene sfatata, c'è un'altra che viene assolutamente accolta, comunque confermata. Addio ai compiti in gruppo. Gli studenti ormai studiano assieme su WhatsApp e Facebook, e quindi ormai è passata la tradizione di trovarsi per fare i compiti assieme, studiare assieme, dicendo studiare insieme, cioè voglio dire, ragazzi, comporti. Sarà bello studiare insieme. Studiare insieme, che suona come scusa per fare altro, ma non è così. Esatto. Soprattutto puoi mettere i videogiochi. Esatto, sì, i videogiochi. Sì. Allora, io non pensavo a coppie, pensavo a gruppo. Ovviamente che a gruppo vede mettere certe cose. Ragazzi, magici anni 80. Ma comunque. Studiare assieme realmente ormai ha perso un attimo di interesse, e si fa tramite Facebook, WhatsApp. Il 40% comunque delle persone, dei giovani che hanno risposto a questa intervista, ammette di chiedere aiuto pubblicamente anche nelle bacheche di Facebook per quanto riguarda i compiti, gli aiuti e via dicendo. Comunque c'è un grande interesse per la collettività, anche per scambiare messaggi notizie riguardo il mondo scolastico e interessi aggiornati tramite i social network. Grande new entry di questa classifica, i professori che diventano anche loro parte di Facebook e quindi che interagiscono con i ragazzi, e in più c'è un 5% che effettivamente ancora si vede assieme per fare i compiti assieme, per ripassare assieme. E poi, ragazzi, un posto d'onore, se permettete, un 2,5% che si vede per prepararsi, per organizzarsi a marinare la scuola. È una cosa mortale. Che fai? Entri domani? Che fai? Ok. Ma noi lo decidevamo la mattina stessa. Sì. E poi ci devi fare la passeggiata al mattino. Ah, ma c'erano quelli che poi non vogliono uscire di casa. Allora, io vado a scuola a Naz, sono 230 euro. Praticamente in costo siamo 15 persone su tutto visto. 4 e quindi è molto un'altra statistica, diciamo. Le scuole private hanno un'altra platea. No, perché li vedi, si ritrovano davanti alle persone della scuola. Pure non faccio se ne vanno perché i professori i pirelli possono dire di fantastico, la scuola che vorrebbe tutti. Ma poi era bella scuola la mattina, marinare, organizzarsi la festicciola, sì. Stare con gli amici, passare la mattina assieme. Però altri momenti, altre anche fasi di vita che ricordano felicemente gli anni 80. Ma ragazzi, passando adesso al nostro angolo dell'art, la rubrica, la notizia più focosa della settimana, Valeria Marini è uscita fuori di seno. È uscita fuori di seno. Di seno. La ragazza ha postato delle foto eccessivamente provocanti su Instagram, comunque scatenando le sue centinaia, forse migliaia di fan, e devo dire che si è data parecchio da fare, perché ha messo insieme massaggio a luci rosse, varie foto comunque in intimo, una in compagnia di questo suo massaggiatore di fiducia, che sarà un'altra figura professionale del 2.0, il massaggiatore di fiducia, voglio dire, era quello che ci andava a studiare assieme. Sì. E qui ancora va a casa di studiare, ovvio. E quindi ha fatto questa vari momenti della sua vita sexy ripresi tramite Instagram. Io mi ricordo una volta c'erano proprio delle persone che lavoravano per quei catti. C'erano i paparazzi che lavoravano tipo per avere questi catti rari. Ma invece nel 2.0 sei c'è tu l'Instagram. A farti lo scandaletto, a confezionartelo in casa e a metterlo su Instagram. Ma alla tenera età di 50 e passa anni, effettivamente se ne sentiva il bisogno di queste cose. Vabbè, ma voi non avete mai fatto uno scandaletto su Instagram? Io neanche Instagram, per dire. Quando, dai, per dire. Non ti guardi i videogiochi invece di studiare. Non guardi Instagram. Cioè, sempre nato negli anni 80. Ma io sono nato negli anni 80. Appunto, dramma. What? E anche in questo caso, ragazzi, teneteci aggiornati sui vostri scandaletti erotici tramite cena@gmail.it. devo tenermi aggiornato. Ovvio. Con i maschili puoi mandare a lui. No. E adesso passiamo a una piccola pausa musicale. Quer mais E ragazzi, la cena dei regini, bentornati, vi siete voluti back.it, commentate questa trasmissione a cena @back.it e inoltre veniteci a trovare anche su YouTube se non ci state guardando, se vi state privando di questo spettacolo bellissimo. E inoltre sulla pagina Facebook della cena dei regini. Ragazzi, adesso passiamo all'angolo della classifica, una classifica molto particolare. Neanche noi sappiamo qual è, neanche loro sanno qual è, perché facciamo un esperimento, come dire, quasi di gioco di ruolo. Ragazzi, vi portiamo con noi nei 10 momenti fondamentali della serata regina. Quindi ragazzi, prendete le vostre cose, pronti a partire, astraetevi. Alla numero 10: neanche se uscito di casa e già hai voglia di tornare a casa. Quel momento in cui dici esco, ma poi c'è quella, no, vabbè, vabbè. Cosa va? Il mezzo ripensamento iniziale, no, questo mi capita spesso. Cioè, comunque io vado esco a Reggio, per fare cosa? Sono a casa. Proprio qui, a casa, per fare cosa. Poi quando arrivi nell'ascensore vedi il riflesso e dici no, ma guarda come sono combinato, no, una boda esposta, signora. Capita. Poi ti a stare su un guscio, mi fa fuori tutto il tempo così. E ti becchietto a freddo. Sì, per me è per l'ultimo per fare anche questo qua. Ma ragazzi, ok, siamo usciti, l'androne di casa, si esce, fermi tutti, numero 9, piove, sta piovendo, la pioggia, questo grande deterrente. Questa variabile che ha rovinato la serata a milioni di regini in tutta la città. Ma che dici? Che genere? Quindi... cosa dite? Pozzanghere giganti in cui sprofondi se c'entri con la macchina? Ma quello è ma poi devi capire che le vecchie buche che ti trasformano per capire. Cosa hai detto? Aspetta, ho sentito parlare di botole della fornitura che volano via e qui ci sarà tutte le macchine. È tutta illusione. Ebbene sì, la pioggia è un grande deterrente, poi a Reggio, come dire, abbiamo dei fenomeni atmosferici molto particolari, perché si passa dal sole, comunque dal cielo stellato al diluvio, spesso in maniera incondizionata. Vedi, non c'è nessuno di una bella giornata. Sono fatti solo 5 minuti. Poi sì, io citerei due casi, tra l'altro, come pioggia stradale a Reggio. Uno è il mitico svinco di San Leo, fatto perfettamente per accogliere tutta l'acqua possibile e non farlo uscire. In realtà nasceva come pozzo, poi hanno detto, vabbè, dai, facciamoci uno svincolo. Il progetto si chiamava Scolapasta senza buchi. nell'autocad delle cose. Ma qual è quello vicino al pozzo? No, questa no, è San Leo, quello c'è. Perché c'è. Qui c'è una porta, c'è una strada che è proprio a conca e non si può passare. Cioè, tipo, quando piove c'è una pozza d'acqua così. Ma contate, ci sprofondi. Perché quello vicino al centro commerciale. Quello. Quella. Secondo me, poi io ho visto poi per una volta un camion là, a farti il bagno. E poi un altro caso sintomatico, non so se poi hanno mi ricordo anni fa, in Viale Calabria, che stavo guidando verso casa, ho visto questa cosa luccicante che attraversava la strada, muovendosi, ho detto che sarà una bicicletta, qualcuno in bicicletta, eccetera. Poi mi sono accorto che luccicava anche il fondo della strada, perché tutta la strada era allagata. E quella cosa che luccicava era un cassonetto della spazzatura che stava navigando in mezzo al viale Calabria, così. Reggio, 365 giorni l'anno col costume. Costume da bagno. Comunque ragazzi, facciamo che non piove, facciamo che siamo usciti. Prendiamo la macchina, prendiamo il motorino, dai ragazzi, giovani che ci stanno seguendo. Saliamo in macchina, usciamo, aspetta, c'è il poliziotto, ma c'è il poliziotto alla numero 8, quello che ti ferma perché vuole rovinare la serata a qualcuno. Il grande classico, giovanotto, mi dai i documenti e mi dai il libretto della macchina e mi dai la tessera sanitaria. Questa cosa è dove il triangolo? Il giocotto cade di soggetto. E quindi capita spesso il poliziotto che ti vuole rovinare la serata. Può capitare anche questo nella 10 minuti in passato. Sì, se non hai nulla di compromettere. Se non hai nulla di compromettere. No. Avanti, a me è capitato una volta, circa un anno fa, in zona Porto, mi hanno fermato dei sembra fossero della polizia, e alla fine della cosa mi hanno chiesto, scusa, ma tu sei il Bacchi? Sì, sono il Bacchi. E questa cosa mi ha emozionato, grazie per quell'emozione che mi hai dato riconoscere. Ma ti hanno detto, mi fai l'autografo su questo verbale? No, per fortuna quella volta no. Ragazzi, abbiamo superato anche il poliziotto, stiamo camminando per le vie di Reggio, ovviamente, diciamo, si cammina, arriviamo, parcheggiamo, ma il locale è vuoto. Il locale è vuoto. Ma siamo usciti alle 10. Ma si esce alle 11:30. Forse abbiamo sbagliato lì. Io venerdì alla sera, numero 7 il locale è vuoto. Venerdì sera, per esempio, sono andato a vedere degli amici che suonavano in un locale. Sul manifesto c'era scritto 11:23:15. Sì. Erano le 24 e quindi era mezzanotte e un quarto che non avevo gli strumenti, perché fino a, diciamo, alle 11:30, mezzanotte e 9:20 c'era quasi nessuno. La gente non si iscrive da casa per motivi a noi sconosciuti, voglio dire, non è... ed è un dramma anche da quando organizzo le cose all'Aus. La gente cena tardissimo, 11:30. Secondo me c'è una cena tardi e poi fino a qua altri 3 punti della sua vita, della classifica. Oppure ha una mogliana in macchina. Ma quelli sono altri discorsi. Cosa del caso, sentirsi male, caro. Il locale è vuoto, ovviamente quello accanto sarà stracolmo, perché anche questo è un mistero regime. Locali che sono accanto, dicendo. Facciamo che si entra. Si entra. Locale strapieno, quindi eccetera, ci sistemiamo, però alla numero 6 trovi posto solo sotto le casse del locale. Dipende da che musica fanno, appunto. Dipende quanto la tengono alta. Per me può essere pure alta. Ovviamente. Se la banda è 180 più sua. Sotto casa. Poi ti trovi la cover band di Luigi D'Alessio. 180 bpm a Reggio Calabria. C'era uno a Reggio. Ma è massimo per Reggio Calabria e allora così a 2 bpm. No, purtroppo ho trovato uno che sentiva uno. 150 bpm. Ti troverò un ragazzo, che ascoltavi la tecno. Bacca, l'abbiamo registrato. Ha detto ti troverò un ragazzo. Era un ragazzo, e voglio conoscere quali gruppi ascoltano. E tutto di atti in pieno. E quindi ti becchi la musica del locale per tutta la serata, che ti piaccia o no, comunque c'è questa usanza. Poi all'interno dei locali, per un motivo che io non capirò mai, non c'è la possibilità di parlare, bisogna vietare alla gente di parlare, sì, alzandogli la musica a 300. Cioè, ma voi volete i contatti umani? Stava a casa mia. Anche no. Ma li guardano, dico, ma in fondo stanno parlando, alza, alza, e là, sono, si stanno per baciare, metti, ecco, metti death metal, eccetera. Adesso bello. Raccapriccio. Con la colonna. Vabbè, ragazzi. Alla numero 5 si va avanti. Abbiamo sopportato la musica sotto le casse. Stiamo sopportando comunque il locale e via dicendo. Ma da lontano si scorge chi? Numero 5, ribecchi un ex. L'ex fidanzata nel locale. Un classico, cioè la serata regina, sconvolta anche per questo, ribecchio Nex. E vedi in quello sguardo anche non dato tutte le cose che sono rimaste sul e vedi in quel momento che vorresti avere la cultura col dito medio. Dice a tutti, aspettate, ho portato un centro tavola io. Pam! La scintura. Ovvio. Un candelabro. con ogni braccio di dito medio. Però, e a che posizione siamo? cioè è bella alta comunque, sì. È la numero 5, sta la navigando 5, alla metà. Cioè tu pensa, se noi facciamo adesso una produzione di ciondolini per pollo a forma di dito medio, grande così, certo, quanti reggini se lo compreranno? Abbastanza. Pollidoro, più che pensi i reggini vanno. Ragazzi, ho visto la mia ex, il giubbotto. Pensi che ci sono molti reggini che già vanno in giro con le broci d'oro grosse 30.000 centimetri. Davvero? Ce ne sono un sacco. Soprattutto, più vai verso la campagna, più sono grosse le broci d'oro. Certo, si parla di queste cose già nel video. Hanno come collana una chiave anche. Quello ogni è ho già il ragazzo di botte. Un contatto con il divino. Alla fine, per quanto reggio possa essere grande, alla fine è sempre è piccola. Perché tutti i luoghi che vengono frequentati sono sempre quelli. Mm-hmm. Quindi la possibilità di incontrare il proprio ex è altissima. È assolutamente alta. Assolutamente sì, infatti numero 5 della classifica, ribeccare un ex, cosa che capita, voglio dire. E già questo rovina la serata media del regino, medio del regino, un locale di medio. Ma poniamo che si supera l'impatto con l'ex, l'hai salutata, si sposerà ad aprile, e te l'ha detto, ti vuole invitare al matrimonio, e via dicendo, va bene, andiamo avanti, dramma. Alla numero 4, dramma soprattutto per le amiche che ci ascoltano, scopri di esserti vestita uguale a un tuo amico o amica nel caso che sia. Questo soprattutto per le ragazze, grande onta, però anche per gli uomini dà l'effetto scemo e più scemo. Allora, dipende quanto è l'amico di questo amico, perché se è amico, te lo pigli e braccetto, ti vuoi inchia compare, inchia fratelli gemelli, così tipo... Considerando che poi non le donne invece si succede quasi mai, però le donne diventano una cosa per le donne è un'onta, è un'onta, sei vestito come me, assolutamente, torna a casa, cambia. Perché per gli uomini finisce sempre o gemelli del destino, sì, cioè amiconi, vi dicendo, sì, sì, scemo e più scemo nel caso che sì, abbia beccato l'amico un po' che... sfigato. Per le donne sempre il catfight sul vestito. Ma a livello, cioè, mi sa di aspetti le persone identiche, se avrete capelli, vestiti, fotocopie uno tra l'altro. Il jeans e sigaretta che scoprono le caviglie. Tutti così. Qua, la striscia qua così. Ma non vi sentite principessine Disney? Manca solo la farfallina tatuata qua, con il cuoricino accanto. Una l'avevo tatuato sulla caviglia, ma... Scusami. Misteri, ma ragazzi dobbiamo andare avanti, la serata è ancora lunga. Comunque abbiamo superato anche questa fase di... questa scoperta di essere vestiti uguali a un'altra persona, ma alla numero 3 è questo, ragazzi, questa è dura, questa è forte. Ti rovesci qualcosa addosso. Ma è successo? È meglio. Sei nel locale. Ma anche un po' di ketchup e cioccolato. Assolutamente mai. Non è congelato. Mi potrà succedere. Manco da dire. Mi potrà succedere. Non ma più che il caso queste cose qua sono le cose liquide, cioè quelle che si attaccano al vestito, tra l'altro creando un'ambigua chiazza sul pantalone. Quella che gioca. No. Quella sì, no, è quando anche l'acqua, questi liquidi più così, quella è dura, a parte quella sensazione lì. Grazie. Che acqua ti asciuga. Col bel tempo del giro che sì, sì. E quel regino di cui parlavamo prima. Al massimo si mimetizza nel resto della pagliatura. Dramma, mi capitò una festa tempo fa in centro, un tizio che si vestiva la birra proprio in zona pantaloni, diciamo un po' calda, fa tutta la serata dicendo no, è birra, tranquilla. Dramma, era terribile. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo andati avanti. Alla numero 2 però, visto che si sa, la movida regina è fatta di quel rosario di locali da girare e rigirare, alla numero 2 la stanchezza che si accumula pagando per i locali. cioè quando sei in quel ring, definisco io, dico cazzo, stai girando, inizia a essere veramente stanco, veramente stanco. È classico. Sì, perché alla fine cammini comunque giù. Anche perché se prendi la macchina non esci più. No, assolutamente. Quindi devi fare tutto a piedi. E meno che non sono locali che tirano sul corpo, hai fatto anche. No, e comunque quelli magari dove c'è musica dal vivo sono tutti alla parte un po' più alta. Quindi fatti una bella camminata, sì. E ti fa la salita. Poi scendi per andare a bere. No, ma è che poi girando di locale in locale trovi più o meno sempre le stesse persone. Cioè, questa entra, che la fauna regina si esaurisce in quei sei locali solitamente, quindi ci si ritrova, ci si ritrova, però sono comunque nel chilometro quadrato. Sì, sì, sempre nel ring. Almeno tutti sono locali, alla fine porta anche le piazze. Una volta la pochissima piazza che ha mangiato adesso piazza Italia. Piazza Sant'Orto? Scusate, hanno fatto una serie su YouTube di piazza Sant'Orto. Ah, bellissimo. Comunque sì, ogni piazza, beh, la piazza raggruppa le varie filosofie di vita, per esempio, i portali, le alternative, diciamo, sono ambienti a sé, sono mondi paralleli. Però ragazzi, la numero uno, il grande finale, si torna a casa, alla numero uno c'è, tornare a casa programmando già un'uscita migliore di questa. E succede secondo me sempre. La prossima cioè, qualsiasi volta cosa fa, hai fatto cosa? Se hai visto un concerto pazzesco, hai fatto un festino con quattro donne, un concerto metal pazzesco, un vernissage in centro. Però tornerai a casa dicendo sempre: ma la prossima volta sarò un leone, la prossima volta io spacco il mondo. Dici sempre così. Poi esci. Poi esce e non sai se uscire. Ragazzi, raccontateci le vostre serate regine, le vostre movite regine, eventi, fatti strani, fatti di ogni genere, fatti ma non fattissimi, una cosa che non consiglio a nessuno. C'è la ghiacciodelbacco.it e adesso una piccola pausa musicale. E ragazzi, era la cena dei regini, che questa settimana è andata e ci è andata direi di lusso. Abbiamo mangiato la grande. Che ci vai più? Sono appena arrivato. Alla cena dei regini mi arrivi dopo cena. Ed okay. Era la cena dei regini, ragazzi, di Backroom Pit, cena ghiaccio di Backroom Pit per commentare la puntata. Ci vediamo settimana prossima. Un saluto a tutti.